Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti a quest'ultimo appuntamento settimanale con Europa 24. Partiamo dalle sanzioni amministrative dell'Unione Europea contro il braccio armato di Hezbollah libanese, ne abbiamo parlato in settimana, oggi sono entrate in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE. L'elenco dunque UE delle organizzazioni terroristiche ora conta 26 gruppi. Essere in questa lista implica un blocco dei beni europei di Hezbollah e, per quanto Bruxelles non abbia indicato nomi di dirigenti, l'ingresso in Europa ora dei membri del Partito di Dio diventerà molto più complicato. Disputa commerciale Unione Europea-Russia prosegue dopo che Bruxelles ha denunciato Mosca alla WTO per i dazi sul riciclo dei veicoli. Mosca ha annunciato che dal 14 agosto entreranno in vigore regole più strette per il passaggio delle merci europee alle dogane. Per questo il commissario alla fiscalità Algirdas Emeta ha inviato una lettera ai russi per chiedere loro di rinunciare alla nuova mossa. Staremo a vedere. Più carte, meno contanti. Nel futuro dell'Europa, o almeno dell'Unione Europea, transazioni elettroniche a basso costo. Le banche dicono no, alcune hanno detto ni, ma ai consumatori piace. Sono stati il commissario al mercato unico Michel Barnier e il commissario alla concorrenza Joaquin Almunia a presentare l'iniziativa che vuol mettere un tetto alle commissioni bancarie dello 0,2% della transazione per le carte di debito e dello 0,3% della transazione per le carte di credito. Ora come ora invece la commissione pagata dalla banca del commerciante alla banca del consumatore può essere addirittura pari all'1,5% del totale della transazione. La media europea è dello 0,9%. Una situazione che contribuisce alla frammentazione del mercato unico. Per le società di settore, la diminuzione della commissione bancaria però comporterà un aumento dei costi ai danni del consumatore. Capisce, ma non giustifica le ritrosie delle banche, Monique Goyen, direttore generale della Organizzazione Europea dei Consumatori. È un passo nella giusta direzione, metterà competitività e innovazione nel settore, dice Goyen, che apprezza molto anche un altro passaggio della proposta avanzata dalla Commissione. Siamo molto lieti del bando alle sovrattasse sulle carte di credito e debito. Prenotando online un volo, ad esempio, non ci sarà più il rischio di vedersi imporre un sovrapprezzo solo perché si paga con carta di credito. Per entrare in vigore, il pacchetto legislativo deve essere approvato sia dal Consiglio che dal Parlamento. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tra i luoghi comuni che ci portiamo dietro c'è spesso l'idea che il nostro corpo insegnante comunichi poco col resto d'Europa. Beh, alcuni dati smentiscono radicalmente questa posizione, in particolare quelli di eTwinning, la piattaforma comunitaria che dal 2005 connette docenti in tutta l'Unione Europea. Secondo l'ultimo sondaggio dell'istituto, nel 2013 il numero degli insegnanti italiani iscritti ha superato quota 15.000, sono il 18% su circa 206.000 docenti registrati in tutta Europa. E ora continuiamo a parlare di iniziative e di giovani, anche di opportunità, magari per l'estate. Sono Federico Taddia e oggi vi voglio segnalare alcuni scambi europei per giovani dai 13 ai 30 anni con ancora disponibilità di posti per l'estate 2013. Le proposte sono tante e diverse. Ambiente e vita sana è il tema del campo previsto a Cipro dal 25 agosto al 1 settembre, mentre nello stesso periodo a Muggia in Turchia si tenta di sviluppare nuove capacità artistiche e fotografiche per aumentare la consapevolezza del proprio ruolo di cittadini europei. Sempre a fine agosto in Lettonia si dedica una settimana al cibo come punto di partenza per la comprensione delle differenze culturali tra i paesi, mentre in Estonia, a Valga Town, con lo scambio intitolato We Are Europe, si affrontano tematiche legate alla tolleranza e alla cittadinanza attiva. Tutte le proposte sono finanziate per il 70% dalla Commissione europea. Per informazioni www.scambiinternazionali.it. Tutte informazioni che ritrovate come sempre su radio24.it. Un saluto da Filippo Regi in regia, da Gigi Donelli a microfono. Europa 24 torna lunedì alle 13.15. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.